240. Migliaccio di farina dolce, volgarmente castagnaccio. Anche qui non posso frenarmi dal declamare contro la poca inclinazione che abbiamo noi italiani all'industria. In alcune province d'Italia non si conosce per nulla la farina di castagne e credo che nessuno abbia mai tentato di introdurne l'uso. Eppure, pel popolo e per chi non ha paura della ventosità, è un alimento poco costoso, sano e nutriente. Interrogai in proposito una rivendugliola in Romagna, descrivendole questo migliaccio, e le dimandai perché non tentava di guadagnare qualche soldo con questo commercio. «Che vuole?» mi rispose. «È roba troppo dolce! Non la mangerebbe nessuno!» «O le cottarone che voi vendete non sono dolci? Eppure hanno dello smercio», dissi io. «Provatevi almeno», soggiunsi. «Da principio volgetevi ai ragazzi, date loro qualche pezzo in regalo per vedere se cominciassero a gustarlo, e poi dietro ad essi è probabile che a poco si accostino i grandi». Ebbi un bel dire. Fu lo stesso che parlare al muro. Le cottarone, per chi non lo sa, sono mele e pere per lo più cascaticce, cotte in forno entro una pentola nella quale si versa un gocciolo d'acqua, coprendone la bocca con un cencio bagnato. Veniamo ora alla semplicissima fattura di questo migliaccio. Prendete 500 g di farina di castagne e siccome questa farina si appasta facilmente, passatela dal setaccio prima di adoperarla per renderla soffice. Poi mettetela in un recipiente e conditela con uno scarso pizzico di sale. Fatto questo, intridetela con 8 dl di acqua ghiaccia, versata poco per volta, onde ridurla una liquida farinata e in cui getterete un pugno di pinoli interi. Alcuni aggiungono ai pinoli delle noci a pezzetti, altri anche dell'uva secca, e sopra qualche fogliolina di ramerino. Ora prendete una teglia ove il migliaccio venga grosso un dito e mezzo all'incirca, copritene il fondo con un leggero strato d'olio ed al trolio 2 cucchiaiate spargetelo sulla farinata quando è nella teglia. Cuocetelo in forno o anche in casa fra 2 fuochi e sformatelo caldo. Con questa farinata si possono fare anche delle frittelle.